Grazie, Samita, Ammirazione, anche per la vostra applicazione, per la sensibilità, per la prontezza e il calore delle discussioni che certamente hanno rivelato un forte interesse a questo lavoro. Io rimpiango la verità di non essere stato in grado di partecipare integralmente, ma da quello che ho sentito ho capito anche intravisto quindi che l'istituto sia un istituto laicale e io sia tutore e assertore della laicità di questo istituto, no? Ma consentitemi in una parola, devo dire anche l'impressione di un teologo, ho sentito nei discorsi fatti, pur su un altro piano, ma insomma un complesso di affinità fortissime con quelle che sono i problemi continui trattati dalla teologia come rivelazione oppure escatologia, insomma solidarietà, carità, santità, problemi che a noi sono forse troppo familiari e che proprio da un colloquio come questo anche ai nostri occhi appaiono molto più al vivo nella loro urgenza, nella loro grandezza e anche nella loro necessità. Insomma, una volta di più mi sono accorto che un istituto di scienze religiose ha veramente questa missione di portare a contatto questi due piani di riflessione e quindi giudico senz'altro un arricchimento anche per il nostro istituto questo incontro. E pertanto ringrazio in particolare coloro che lo hanno organizzato e presieduto, lo Schumacher in particolare e la riserva che lui presiede, e il professor Penzo che ho pregato appena adesso di tenere il vincolo di comunicazione col vostro istituto anche in avvenire. Ecco, e avremo sempre piacere di sentire anche l'ulteriore sviluppo di queste riflessioni, no? Ecco, venita Stoic non salda, il sarte das Obolunser Institut ein keine kirchliche Anstalt ist und kein konfessionelles Institut. Ich kann mich doch erlauben, als Theologe und als katholischer Theologe vielleicht eine persönliche Meinung sagen und die Synergie und die Harmonie zwischen vielen Themen, die die Theologie auch behandelt. Und die gerade aus diesem Kontakt sich in ihrer Größe und in ihrer Notwendigkeit und in ihrer Lebendigkeit sich unseren Augen manifestieren. Ich rechne das als eine Bereicherung auch für unser Institut, gerade diese Möglichkeit eines Kontaktes und eines Vergleiches zwischen Theologie und Religionsphilosophie und ähnliche Probleme. Ich wünsche, dass die Verbindung auch in der Zukunft bleibt, nicht? Und ich habe eigens gebeten, den Professor Penzo auch weiter mit dem Professor Schirmacher und mit der Schopenhauer Gesellschaft für uns die Verbindungen weiter zu behalten. Bedanke ich mich auch für alle Teilnehmer, die mit lebhaftem Interesse hier mitgemacht haben und wünsche Ihnen noch einen recht guten Abschluss und eine schöne Heimfahrt. Ne? Di Lecce e il professor Aldo Terin dell'Università Cattolica di Milano. Allora oggi parlo da due, cioè Negroni, parla prima Negroni. Negroni vuol parlare prima. Sì. Io presento una comunicazione intitolata Essere e non essere nell'opera di Schopenhauer. È una comunicazione, preciso subito, è un po' lunghetta perché sono 14 cartelle di 50 pagine, 50 righe per pagina. Quindi non avremmo tempo materiale, poi sarebbe, credo, estremamente noioso veramente mettersi a leggere. Per cui mi consentirete di parlare così a braccio, di raccontarvela se volete, perché penso che abbia un'ambizione che forse sta a cuore anche a qualcun altro, penso a tutti, ma forse anche a qualcuno in particolare, e che vi esporrò immediatamente. Dunque si tratta di questo. Io tengo ferma, naturalmente, il quadro di lettura che è stato dato qui della filosofia schopenhaueriana. Come del resto avevo già detto in un mio lavoro precedente dell'anno 1980-81, anzi 80, sì. E cioè la filosofia schopenhaueriana ha una struttura triplice. Esiste un sapere rappresentativo, un sapere metarappresentativo ed un sapere anarappresentativo. Che cos'è il sapere rappresentativo? Sarebbe in pratica il sapere costituito dal mondo als come rappresentazione. Il sapere metarappresentativo invece è costituito dalla intuizione di noi stessi e del mondo come volontà, e poi c'è il terzo livello, il più alto, che io vedo però in maniera assolutamente ontologicamente dualistica rispetto al mondo come volontà e rappresentazione, che è il livello dello Überwille, cioè dell'oltrepassamento della volontà. È il momento in cui l'asceta o il santo attinge qualcosa che è l'essere, non abbiamo un altro termine con cui chiamare questo, esprimere questo qualcosa che l'asceta o il santo prova. Ecco, allora, la mia lettura, fermo restando questo quadro, la mia lettura di oggi consiste in questo. È stato detto che l'esperienza mistica è un'esperienza privata, certo è un'esperienza privata, e la filosofia è impotente di dare un contenuto preciso all'esperienza del mistico, questo è anche naturalmente vero. Quindi l'essere dell'asceta o del santo rimane indefinibile, si può dire soltanto che das ist, ma non was ist, questo non può essere detto. Allora questa indefinibilità dell'essere del santo o dell'asceta, che è conseguita attraverso una via che potremmo chiamare privata, che è la sua, io ho tentato, scoprendo due passi dell'opera schopenhaueriana, uno dai supplementi, uno dai parerga, di trovare un analogon, un parallelo di questo essere indefinibile, impreciso, ma tuttavia esistente, non per una via privata come quella della scelta, ma per una via pubblica questa volta, che è la via della ragione. Cioè, e dopo leggerò i due passi evidentemente, quando il filosofo incomincia la sua attività filosofica deve sempre iniziare dal concreto. Esiste una copernicanice bendum in Schopenhauer, lo ha detto Ipsen, l'ho scritto varie volte, consiste appunto in questo: la partenza è fenomenologica, sempre è sempre il partire dal concreto. Lui è contro ad esempio la concezione dell'essere, i concetti astrattissimi usati da Hegel e dagli altri contemporanei, essere, essenza, divenire, e questi sono concetti di niente. Una filosofia che partisse da questi concetti è una filosofia destinata all'insuccesso ab initio. Così è contro, ad esempio, la speculazione parmenidiana. E quindi questi concetti astratti, astrattissimi, non sono di suo gradimento. Però, questo è il punto, partendo da una base concreta, si arriva, dice lui, all'ultimo orizzonte della conoscenza rappresentativa e ci si imbatte nei cosiddetti Grenzbegriffe, nei concetti limite, e ci si imbatte anche dai tempi di Kant in poi in un altro concetto, che il concetto di essere extratemporale, che sono concetti non più annodabili con l'intuizione, come i concetti di cui si vale la conoscenza rappresentativa. Insomma, questi concetti che cosa sono? Esistono o non esistono? Intanto esistono, ci sono. Primo punto. Secondo punto, esistono proprio in virtù di quell'inizio concreto fenomenologico del conoscere rappresentativo. E quindi, in un certo senso, vengono a ridimensionare anche la figura della conoscenza in Schopenhauer e a dare degli elementi di riflessione per una ricostruzione del concetto di ragione in Schopenhauer, come giustamente riconosceva Riconda ieri e anche mi pare l'altro ieri. Certo, non credo che si possa arrivare a dire che la metafisica razionalistica non è stata criticata sufficientemente, questo è fuori discussione, ma voglio dire che dovremmo rieditare uno Schopenhauer, altro che il razionalista, non dico razionalista, no, però è un autore in cui permane ancora qualche motivo, non direi tanto inerziale, ma proprio attivo, di concetti e quindi di una via pubblica che, collegata con l'altra, rende meno gratuito, diciamo, il privato del mistico. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. E se posso andare avanti, anzi, prima vi leggerò i due passi dei supplementi e del mondo. Ecco, i passi. Dunque, la pagina, c'ho l'edizione Ipscher, perlomeno dei supplementi, e io sarei desideroso che qualcuno, se al corrente di altre pagine dello show, non so se sono stato chiaro nell'esporre il problema, mi preme che il problema sia chiaro per gli ascoltatori. Il mio problema è questo: sono d'accordo che la via del mistico è un po' privata, e allora se potessimo trovare una via pubblica, no, meno privata, pubblica addirittura, io penso che questo potrebbe essere l'inizio di una indagine che ritrovi in altre pagine sia dell'opera, forse anche del Nachlass. Io non mi sono preoccupato di andare a vedere nel Nachlass, potrebbe esserci qualcosa anche lì, e per cui abbiamo uno Schopenhauer che, ripeto, malgré lì è costretto ad ammettere l'esistenza di concetti che non hanno un contenuto intuitivo, eppure ci sono. Nel concetto di essere extratemporale, in particolare, c'è una eco dell'essere. Allora, come è inafferrabile e indefinibile quell'essere a cui arriva l'asceta o il santo, così c'è una indefinibilità, eppure esiste anche il concetto di essere extratemporale, anche i Grenzbegriffen. Quindi, unendo, direi, il carattere dell'uno con il carattere dell'altro, no, la via mistica mi pare che venga riscattata da una certa privatizzazione, non so, da un certo isolamento, se vuoi. Viene resa, insomma, più credibile agli occhi di tutti, visto che anche percorrendo, diciamo, l'itinerario della ragione comune a tutti gli uomini si arriva a questo, si deve arrivare, ecco, questo è il punto fondamentale, secondo me. Non è che si possa, si arriverà senz'altro. Allora io leggerei questi due passi. Dunque, la posizione di Schopenhauer nei confronti dell'essere, del concetto di essere, di analoghi concetti astratti, non è poi così perentoria se si tengono presenti due passi essenziali. Scusate che devo togliere. Due passi essenziali che sembrano attenuare la durezza del discorso antieleatico e che in ogni caso vengono ad allargare il quadro finora tracciato. Il primo passo, dal luogo dei supplementi che vorremmo chiamare canonico per l'argomento, sostiene anzitutto che i concetti astratti non possono essere mai la fonte della conoscenza o il punto di partenza della filosofia, tesi su cui ci siamo abbondantemente soffermati prima. Qualche volta qualcuno dei concetti può essere pensato in modo astratto, insuscettibile cioè di verifica intuitiva. Ebbene, qui siamo di fronte a conoscenze medie, è come se si indicasse il luogo in cui si trova un oggetto senza tuttavia vedere l'oggetto. Un tal genere di concetti può funzionare solo nei casi estremi, quando cioè si arriva ai limiti dell'orizzonte della conoscenza. È il caso del concetto di un essere extratemporale, di tanto in tanto e in caso di necessità la filosofia può ricorrere a tali concetti, ma non può mai iniziare da essi. Ecco, questo è il punto fondamentale. La filosofia parte sempre dal concreto, però finisce anche in questi concetti, in particolare nei concetti limite e nel concetto di essere extratemporale. Soprattutto è questo concetto di essere extratemporale che c'ha qualcosa dell'essere, c'ha in sé come un riflesso, come un qualcosa di una luce che non è in lui, insomma. Quindi analogamente alla indefinibilità, ma all'esistenza, in quel caso privata, dell'essere di cui gode la scelta, si ha anche qui, in questi concetti limite e nel concetto di essere extratemporale, al quale tutti possono accedere, basta che mettono in moto la ragione, e c'è qualcosa, mi pare, di analogo all'altro. Ecco, è questo quello che mi preme, il discorso è tutto qua, ci sono altre cose, ma io ritengo che non sia il caso di fermarsi, anche perché sarà necessario dare spazio ad altra gente la quale giustamente vuol parlare. E se qualcuno interviene, io sono contentissimo. Sì, questo è soltanto è un... Non c'è intanto il presidente di passo. Sì, dunque, il passo... Questo è uno, dunque devo trovare. E uno dei supplementi, vediamo un po' perché siccome ho la nota in fondo. Sì, ecco, dopo le note, sì. E poi c'è anche l'altro passo dei Parerga, quello dei Parerga, in rissa. Dunque. Non l'ho letto, no, quello dei Parerga. Dunque, quello dei Parerga. Dunque, ecco, quello dei Parerga inizia. Se Kant aveva scoperto l'idealità del tempo, cioè l'appartenenza del tempo alla pura rappresentazione, occorre però osservare che non erano mancati precorrimenti di tale teoria kantiana. Basti pensare alla definizione spinoziana del tempo contenuta nel capitolo 4 di Cogitata Metafisica, che addirittura la coscienza della idealità del tempo è alla base del concetto da sempre esistito di eternità. Questo è l'opposto del tempo, non risiede nell'essenza delle cose, ma solo nel nostro intelletto. Ricordata poi la definizione scolastica dell'eternità come nunc stans e quella platonica e poi plotiniana del tempo come immagine mobile dell'eternità, viene sottolineato che il tempo è una sorta di pezzo di eternità e c'è solo perché c'è l'eternità. Ebbene, nello stesso senso, dai tempi di Kant, ho cercato di contestuare naturalmente il concetto di essere extratemporale in questo, ebbene, nello stesso senso, dai tempi di Kant entra in filosofia il concetto di essere extratemporale, dinanzi al quale però, dice Schopenhauer, bisogna essere molto cauti, trattandosi di un concetto che si può pensare ma non rivestire di intuizione. E il testo è un presentimento, fin qui parlavo io, anche se ho ripreso quasi la lettera, l'espressione poi della citazione. La citazione è questa. Un presentimento della teoria kantiana dell'idealità del tempo si trova in varie sentenze di antichi filosofi puntini. Propriamente la coscienza dell'idealità del tempo sta perfino alla base del concetto da sempre esistito di eternità, ripeto. Coloro che avevano una qualche penetrazione hanno sempre concepito il concetto di eternità, ma potevano far ciò solo perché sentivano che il tempo risiede solamente nel nostro intelletto, non nell'essenza delle cose. Solo l'inintelligenza delle persone assolutamente incapaci non ha saputo intendere il concetto di eternità se non come tempo senza fine. Ciò appunto costringeva gli scolastici a sentenze perentorie come eternitas non est temporis sine fine successio, sed nunc stans. Del resto già Platone nel Timeo aveva detto, e Plotino lo ripete, aionos eikon kineteo chronos. In questo senso si potrebbe chiamare il tempo un pezzo di eternità e fondare questa affermazione sul fatto che se non vi fosse eternità non vi potrebbe essere il tempo, anzi che il nostro intelletto può produrre il tempo solo perché noi ci troviamo nell'eternità. Dall'epoca di Kant, nello stesso senso, è stato introdotto in filosofia il concetto di essere extratemporale, ma bisognerebbe usarlo con molta cautela, già che esso fa parte di quei concetti che si possono pensare, ma non rivestire di intuizione né realizzare. Questo è dai Parerga. Sì, molto bene. E ci sono altre cose, ovviamente, anche sulla volontà, ma di queste ne avevo parlato a braccio sia con il professor Riconda che con altri, cioè della volontà, perché poi c'è anche questo problema, mi è sorto un altro problema, che questo Überwille possa essere poi in effetti la volontà stessa, ma la volontà certo come Dingensi, non certo la... non la volontà che si fenomenizza, certamente, ma anche lì ci sarebbe poi un problema. Come è possibile allora che il risultato della volontà nelle Erscheinung e nei fenomeni sia così diverso rispetto alla volontà come Dingensi? Qui non lo so, qui ci sono problemi formidabili, io non tento neanche di sfiorarli in questa comunicazione, il cui scopo era, ripeto, soltanto questo, di rendere più credibile la posizione del mistico, di toglierlo da un isolamento di privatizzazione, non so, di via privata, era soltanto questo. Quindi sarei contento se qualcuno mi segnalasse o ci segnalasse qualche altro testo, qualche altro momento, oppure se ritiene che sia da contestare. Kommunikation zu machen. Zweitens sagte der Professor, hat Schopenhauer einen gewissen Begriff von Sein bekämpft, im Namen des Anspruchs von, also an Konkretheit. Von daher kommt zum Beispiel die ganze Polemik von Schopenhauer gegen Hegel. Hier ist es aber zu unterstreichen, dass Schopenhauer selbst zugeben muss, dass es gewisse Begriffe gibt, die durch die Intuition nicht ergreifbar sind. Aber man denke hier nicht nur an den Begriff des Heiligen, sondern an die sogenannten Grenzbegriffe. Vor allem denken wir an den Begriff von außerzeitlichem Sein. Nun, diese Begriffe, diese Grenzbegriffe, bewahren eine eigene Gültigkeit. Alle können bis zu diesen Begriffen ankommen. Das ist ein öffentlicher Weg. Und die Philosophie, man kann sagen, endet mit diesen Begriffen. Aber gerade so wie mit dem Begriff vom Heiligen, kann man sie nicht definieren. Also, wenn das stimmt, warum, das ist die Frage, die zentrale Frage, sollen wir uns wegen der Unmöglichkeit, den Heiligen zu definieren, bewundern? Das gilt auch für diese Grenzbegriffe. Ja, man kann nicht den Heiligen definieren, aber, so wie mit diesen Grenzbegriffen, bleibt der Heilige kein Absurdum. Auf eine ähnliche Weise kann der Philosoph nach Schopenhauer zu den Grenzbegriffen kommen. Also von dem Heiligen kann der Philosoph nur sagen, nicht was er ist, sondern dass er ist. Ja, also der ganze Vortrag also ist auf diese Ähnlichkeit zwischen Grenzbegriffen und also den Begriff vom Heiligen begründet. Das ist der Unterschied. Se qualcuno ha qualcosa da intervenire, No, io non parlo. No, dico facciamo. Sì, sì, mettiamo. Allora, sì. Ciao. Noi cercheremo di rendere il posto. Grazie.